E ben ritrovati sulle frequenze digitali di Radio Archimede. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, e questo è Sono Solo Nuvolette. Oggi ho due autori umoristici che sono anche molto simpatici, e questo non so se è una cosa scontata, perché poi faremo un discorso interessante sull'horror. Chi fa horror, pare che chi fa horror sia più scherzoso, invece che l'umorismo sia molto più difficile. Sono partito molto alla larga e Giorgio mi guarda spaventato. Allora, annunciamo per bene. Prima le signore, Laura Stroppi, autrice di Gigolo Sfigo, illustratrice e fumettista. Autrice umoristica, eccetera. Ciao a tutti. E Giorgio Sommacal. Ciao. Al contrario, autore, fumettista, illustratore e posatore di moquette. Ah, ok. Alla bisogna. Questo però non c'era sul tuo curriculum. Vede, non era ben dettagliato. No. Ok. Qui da queste parti, su queste frequenze digitali, cerchiamo di raccontare un po' gli autori di fumetti, di illustrazione, e poi anche esplorare la cultura pop, visto che la settimana scorsa avevamo in onda Ivo De Palma, il doppiatore di Pegasus, e di altre voci della cultura pop. Invece oggi torniamo a parlare espressamente di fumetti. Ci togliamo subito dalle scatole la parte più popolare, conosciuta, a cui Giorgio sei spesso associato, e poi esploreremo il resto. La domanda cruciale è, visto che tu sei un disegnatore di Cattivic, ma la domanda cruciale è: ma si pronuncia Cattivic? Cattivic o Cattivic? Questa domanda mi coglie del tutto impreparato, nel senso che non te l'hanno mai fatta. Non me l'hanno mai fatta, ecco. No, allora, io dico Cattivic, perché okay, dovrebbe derivare dalla parola cattivo, come diabolic, da diabolico. Dopodiché ognuno lo chiama come vuole, va bene spostare l'accento su qualsiasi okay vocale, non c'è problema. Qualcuno ha la minima idea di cosa ne pensasse Bonfi? No, io so che Bonfi non lo so, ma Silver alla stessa domanda ha risposto come me, ma non perché siamo una squadra, ma perché l'abbiamo sempre chiamato così in redazione. Ah. Dopodiché i lettori possono chiamarlo come vogliono, okay, perché il personaggio in qualche maniera diventa tuo quando lo leggi, quando ti piacciono le avventure e ci metti del tuo, e quindi questo va benissimo. Sì, come si dice, i personaggi, le opere d'arte diventano di proprietà di chi le legge, non solo di chi le scrive. Sì, su questo discorso della proprietà è di un proprietà, tema molto delicato. Per carità, di proprietà almeno da un punto di vista del sentire. La proprietà intellettuale è un discorso più complicato, che è meglio... anche richiederebbe qualcosa di più di un programma radio al volo, in cui cerchiamo di raccontare un po'. Certo. Però è importante, mi sembra di capire, che ciò che diventa patrimonio comune per dei lettori è anche giusto lasciare un po' di margine ai lettori. Tu, Laura, a questo riguardo hai una tua idea, o anche per te voti anche tu per Cattivic? Ma guarda, io l'ho sempre chiamato Cattivic. Ah, ok. Però si dice anche, io lavoravo nella redazione del Lupo Alberto, per cui non avevo contatti diretti con i sommi disegnatori di Cattivic. Ok, giusto per contestualizzare, perché è una cosa di cui ci stiamo accorgendo, che chiacchieravamo un attimo fa prima di cominciare la trasmissione, che il fumetto, i personaggi a fumetti, tutta quella parte di cultura pop è patrimonio di tutti, ma c'è molta ignoranza sulla sostanza. Tutti conoscono Cattivic, chiamalo come vogliamo, Lupo Alberto, però addirittura siamo al punto che non si sa, in molti non sanno la dicotomia che era un personaggio di Bonfi, poi passato a Silver, e poi a volte non si associa neanche lo stesso personaggio all'autore. Questo è un po' problematico. Su Cattivic, adesso basta, chiamiamolo come... adesso comincerò a confondermi io. Una delle cose problematiche che ho visto nel cartone animato, perché poi questi personaggi diventano anche patrimonio di... diventano anche cartoni animati, si riutilizzano i diritti per l'audiovisivo, così. La cosa che aveva colpito a me del personaggio, adesso chiamiamolo Cattivic, che decidiamo così, del personaggio di Cattivic, è che l'edizione Rai nelle press release non avessero capito di che personaggio si trattava, perché lo chiamavano la goccia d'inchiostro. E se c'è qualcosa che non è mai stato, Cattivic è una goccia d'inchiostro, è sempre stato un personaggio grassoccio con una calzamaglia, giusto? Allora, se ci riferiamo, non ricordo più che edizione era, ma credo dell'editoriale Corno, okay, quando Cattivic è stato creato da Bonvi, Franco Bonvicini, al secolo Bonvi, autore delle Sturmtruppen, Nick Carter e altri personaggi. Ecco, quando su una pubblicazione che io conservo ancora nel mio caveau privatissimo insieme a delle bottiglie speciali di champagne e altre cose, c'è una piccola prefazione dove Bonvi invece dice che Kativik potrebbe essere la macchia d'inchiostro nera che sporca. Poi dopo, se vogliamo parlare, perché questa è anche una domanda che mi fanno spesso i bambini, chi è Kativik? Che cos'è soprattutto Kativik? Che individuo è? Se è una bestia, se è un uomo? Se... Allora ne parliamo e c'ho un piccolo aneddoto divertente. Cioè, stai chiamando una domanda, però adesso devo riformularmela, faccio... giusta? No, adesso lasciare spazio adesso... anche adesso tocca a te. A Laura. Ah, dobbiamo fare a turno? Ok. Allora, poi spera che io mi ricordi poi al momento di farti questa domanda. Te lo dirà lo stesso. Ok. Invece, tanto per così ci lasciamo alle spalle il passato. Tu hai detto che lavoravi nella redazione di Lupo Alberto, sì. Quindi c'è un della fattoria McKenzie, c'è un tuo personaggio con cui avevi un rapporto migliore? Ma guarda, coerentemente con quello che ho fatto dopo, direi Glicerina. Ah, ok. Assolutamente, anche perché poi inventando un personaggio che si chiama Gigolo Sfigo, da qualche parte avevo preso un po' di spunti. Per chi non riuscisse ad associare, Glicerina è il papero della fattoria, sì. McKenzie, che è un personaggio sfigato. È un papero che quando nevica, per fare le palle di neve, mette le mani a coppette e aspetta che la neve cada. Ok, è una specie di Candide. Sì, grosso modo è questo. Credo che la particolarità della fattoria McKenzie, di tutti i personaggi, il cast di Comprimari di Lupo Alberto, è che sono una sorta di varia umanità in cui ognuno si riconosce un po' più nell'uno o nell'altro. Anche questo è vero. Per quanto, insomma, ricordo di quando lo scrivevo, lo disegnavo, ma anche potrei dire la stessa cosa di Gigo, è un campionario di persone che incontri. E questo è il bello, perché ci sono persone che le vedi bene a fare Glicerina per certe cose che fanno, per certe cose che hanno detto, e altre persone le vedi meglio a fare altro. Beh, su questo ci addentriamo negli archetipi. La semplicità del fumetto, il personaggio caratterizzato con un semplice tratto, identificato con una caratteristica, ti permette di raccontare delle storie in una maniera... Sono immediati, il personaggio caratterizzato in maniera molto semplice e immediatamente riconoscibile. Poi ci aggiungi delle caratteristiche, è un po' il trucco dei film Pixar. Ci aggiungi delle caratteristiche e gli dai dello spessore, che invece se fosse un personaggio umano tu ti chiederesti, vabbè, ma quanto guadagna, dove vive? E invece l'animale umanizzato oppure... Ma guarda, in realtà creando un personaggio a fumetti, umoristico, parliamo di umoristico, la prima cosa che secondo me funziona a livello di riconoscimento è la sintesi. La sintesi sia del disegno che dei dialoghi, comunque della caratterizzazione, perché deve essere immediatamente riconoscibile, ma non così definito per cui tu non possa fargli fare più o meno quello che vuoi. Perché Enrico La Talpa era... Enrico La Talpa, per esempio, è una talpa, si vede bene che è una talpa, è diciamo un amico di Lupo Alberto, però nonostante tu lo riconosca benissimo in qualsiasi situazione, in realtà durante tutti gli anni del lupo è stato visto in situazioni diametralmente opposte, sì. E ha sempre funzionato. E questo perché? Perché è vero che lo caratterizzi come potrebbe essere il papero, sì. Glicerina, che è lo sfigato, però non devi caratterizzarlo troppo, perché sennò gli togli la libertà di giocare, e che poi è la cosa più divertente. C'è un elemento essenziale di riconoscibilità che poi però deve lasciarti anche dello spazio per esplorare il personaggio. Poi soprattutto personaggi che hanno vissuto così tanti anni, penso che Lupo Alberto, soprattutto anche Lupo Alberto, il cane Mosè, si è stratificato moltissimo, quindi sarebbe anche interessante vedere come sono cambiati attraverso gli anni. Ma sono cambiati molto anche graficamente, se noti. Per cui insomma deve essere libero. Io infatti, per quello che riguarda me, creando Gigo lo Sfigo, io quando mi chiedono chi è, io faccio fatica a rispondere. Perché potrebbe essere un ragazzino, potrebbe essere più grande, potrebbe essere un uomo di una certa età, può essere fidanzato, può essere diciamo single, sai, può essere tante cose, perché a me piace fondamentalmente inserirlo in tante cose di cui voglio parlare. Ok. Per cui è un personaggio, io penso che sia così, dove ognuno ci vede quello che vuole. E in questo modo lo lascio libero di fare quello che vuole, fondamentalmente, perché non decido a tavolino le idee che mi verranno. Sì. Quando mi vengono delle idee, diciamo, parlando di Gigo, io ce lo metto, poi vediamo come se la cava. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, quando il personaggio è abbastanza forte nella mente dell'autore e a volte anche del lettore, che poi calato in un contesto si muove da solo, vuol dire che ha una sua compiutezza. Certo, considerando che l'ho creato nel 1996, e che a tutt'oggi ci lavoro, anche se poi è cambiato, lo stesso Gigo è cambiato, perché prima facevo delle storie, sempre umoristiche, adesso sono passata a fare delle strisce umoristiche sul modello americano di DBC, tanto per intenderci, e nel senso, sono cambiata anche il tipo di storie che certo. sono andata poi a creare. Anche il formato stesso. Il formato stesso è la grafica di Gigo, perché Gigo è cambiato anche graficamente. Certo. Però dopo tutti questi anni, se non lo avessi lasciato abbastanza libero, avrei esaurito le cose da dire, immagino. Sì, assolutamente. Questo è un bel discorso su cui partire per parlare magari anche un po' dell'evoluzione dei personaggi e anche degli stili. Sì. Adesso lasciamo spazio alla prima canzone. Ho fatto un misto, abbiamo chiacchieravamo prima, avevo un'idea di traccia di canzoni e Laura ha contribuito, Giorgio non stava facendo i compiti, allora era distratto. Poi dopo c'è una domanda per te, ma adesso ti frego e mandiamo la prima canzone. È un pezzo, è un classico dal repertorio dei Creedence Clearwater Revival, e il pezzo si intitola Bad Moon Rising. E rieccoci in onda, sempre Sono Solo Nuvolette, sempre Laura Stroppi e Giorgio Somacal. Adesso nel ping pong tocca a Giorgio, che aveva, si era fatto una domanda, si stava già dando una risposta, l'abbiamo fermato, quindi ricominciamo. Non ricordo, sì, allora, ricordo benissimo. No, la domanda facciamola bene, perché partiamo dal presupposto di essere un programma serio e quindi la gente deve capire, non credere che sono solo nuvolette. No, sono solo nuvolette in senso ironico, come diceva Bennato delle canzoni. In realtà c'è molto di più, c'è un intero universo di storie, di narrazione, di emozioni che riescono a raccontare, che sono riusciti a raccontare autori come Bonvi, creatore di Cattivi, che Silver, che l'ha un po' ereditato dal suo maestro e poi lo ha portato avanti negli anni. E Giorgio, tu hai disegnato Cattivic e tanti ti chiedono che cos'è Cattivic. Io prima stavo criticando questa definizione di goccia d'inchiostro, che credevo fosse uno svarione della RAI, quando invece pare che una delle definizioni, tu dicevi che una delle definizioni di Bonvi potenziale era che potrebbe essere una goccia. Intanto il discorso che faceva Laura prima sull'evoluzione del segno, proprio della resa grafica del personaggio, che è legata... spesso, se un autore solo a disegnare il personaggio, ha una sua evoluzione naturale, perché a 20 anni si disegna in un modo, a 40 in un altro, se sa, basta vedere, anche per fare un esempio molto molto alto, i Peanuts, Charlie Brown, The Schultz, no? Come nel corso della produzione il segno è cambiato fino a diventare quasi, mi pare di dire, un segno calligrafico. A volte vedo adesso, col passare del tempo, i fumetti di Silver, di Lupo Alberto, e li paragono ai primi che vedevo fatti da lui all'inizio del personaggio. Sono molto diversi e sono più apparentabili appunto a un segno quasi, non voglio dire calligrafico, ortografico, ma una cosa automatica, perché ovviamente un autore che fa per tantissimi anni un personaggio ce l'ha così nelle corde che anche al disegnarlo lo disegna lo rende in maniera così sintetica. Ecco, questo per dire che è la sintesi pressoché totale, nel senso diventa, sì, un segno nelle mani dell'autore. Tutti, questo è un discorso che si potrebbe fare a parte sullo stile. Non tutti i disegnatori, gli autori di fumetti hanno evoluzione di questo tipo, altri hanno un altro tipo di evoluzione. C'è chi tende alla sintesi estrema, penso all'ultima produzione di Pratt su Corto Maltese, c'è chi arriva a virtuosismi barocchi perché nel corso degli anni infittisce il segno, la resa grafica, e queste sono due strade completamente diverse che comunque anche in arte, nella pittura per esempio, c'è. È questione di sensibilità, l'artista, la direzione in cui va l'artista. È molto personale. Comunque tutto questo per dire che Katy Vick l'ha inventato Bonvi, è stato ereditato da Silver, però la grossa produzione, lo dico ma non per questioni, ma perché è una cosa vera, la grossa produzione di Katy Vick l'abbiamo fatta noi collaboratori di Silver, in credo almeno se non 15 anni quasi. E allora noi, voglio dire, io che l'ho disegnato, Massimo Bonfatti al Secolo Bonfa, Giacomo Michelon, qualche altro disegnatore e inchiostratore, e tutta il parco sceneggiatori, certo, del personaggio. Quindi già, vabbè, queste sono cose da dire assolutamente. Già Katy Vick secondo me è uno di quei personaggi che alla fine è diventato un personaggio non di un autore solo, ma di un gruppo di autori, perché tutti noi ci abbiamo messo qualcosa. Certo. Allora, dal punto di vista grafico, c'è chi lo disegnava come una castagna, c'è chi lo disegnava come una pera, c'è chi lo disegnava come una melanzana. Qualcuno si è addirittura, anche ho letto su qualche sito, si è avventurato in questo argomento cercando di fare una storia cronologica. Però rimane sempre questo dato di fatto. Nella domanda candida che mi fanno spesso i bambini quando si parla di Katy Vick: ma Katy Vick che cos'è? È una bestia? È un uomo? È un mostro? Che diavolo è? Allora, io ricordo che in una storia che ho disegnato, scritta da Piero Lusso, a un certo punto Katy Vick, di fronte a una TV dove c'era una sorta di mago ipnotizzatore, si spoglia e resta completamente nudo. Allora io l'ho disegnato completamente nudo, senza questa parte nera che altro non è che una calzamaglia molto sporca. Però quando Silver l'ha visto mi ha detto: eh no, ma qui bisogna mettere una censura, una peccetta, qui all'altezza in mezzo alle gambe. Io pur non avendo disegnato nessun attributo. Ah, ok. E perché lui mi ha detto: perché in fondo Katy Vick è un uomo. Ecco, allora, è un uomo senza orecchie, senza naso, anche se poi alla bisogna nelle storie, come quando in certi cartoni animati americani si vedeva necessitava, spuntava l'orecchio. Anche a Katy Vick, quando deve ascoltare un suono, gli spunta l'orecchio, poi dopodiché non c'è mai. E la sintesi del disegno di Katy Vick è la felicità di tutti i disegnatori, perché ci sono pochissimi particolari da fare. Ecco, però abbiamo scoperto che è un uomo brutto, perché vive nelle fogne, non sappiamo esattamente da chi è nato, chi è la mamma, chi è il papà. È una sorta, io alla fine l'ho pensato come una sorta di Quasimodo in campanaro, cioè un po' deforme, un po' brutto, non prende la luce solare, si alimenta in maniera strana, respira miasmi fognari, e così deve essere, non è che sia un Adone. Sì, beh, questo porta al problematico, perché a volte la cosa buona che non è mai stata fatta del fumetto italiano, e che invece è stato fatto tante volte con, per esempio, con i supereroi Marvel, che si cerca di contestualizzarli nel presente e si arricchisce di questi dettagli. Forse è meglio che non ci siano questi dettagli di Katy Vick, perché se dobbiamo spiegarli, qui si va poi al ritorno del nero genio del male, si fa una versione dark di Katy Vick spiegato. potrebbe diventare da umoristico a horror. Infatti, perché il passaggio... Addirittura splatter. Direi un po' trash, Katy Vick, che avrebbe gli elementi giusti, avendo anche l'arredamento del suo covo abusivo preso dalla discarica. Infatti io in questo, voglio dire, anticipo Fulvio, direi che Katy Vick, nonostante non sia più nelle edicole, ma lo si trovi in raccolte antologiche, so che adesso la Panini sta ristampando tutte le storie, Katy Vick è comunque un personaggio di una tremenda attualità, ma non solo perché fa ancora ridere, è ancora divertente, non è superato da altri personaggi dei quali non potrò fare né nome e cognome, che sono invece molto apprezzati come fumetto umoristico, perché anche a livello molto molto storico e reale accomuna moltissimi di noi, nel senso che lui veramente vive di poco, quello che è il futuro di molte persone, nonché il presente probabilmente. Ma quando Giorgio fa questi discorsi qua c'è da preoccuparsi oppure... No, c'è da ascoltare in silenzio, perché non respira quando parla, per cui... No, ma io parlavo della componente drammatica, cioè... sociologica. Ho capito che in realtà dicono tutti, diceva Paul Auster, che bisogna scrivere una commedia quando si è un po' tristi e una tragedia quando si è allegri. Ecco, hai citato, senza che ci siamo messi d'accordo, tu hai citato uno degli autori che per me sono... numi tutelari. Non ci siamo messi d'accordo, però qui è il superpotere del conduttore radiofonico che fa, fa cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho anche intervistato Rutger Hauer una volta, mi ha insultato, credo, però è lunga storia. Laura, visto che parlavamo di Gigolo sfigo, sì. Ma tu hai mai, e visto che aggiungevamo dettagli a cattivi quasi problematici, tu ti sei mai trattenuta dall'aggiungere certi dettagli a Gigolo sfigo di realismo che magari lo avrebbero depauperato? Cioè, ti sei mai chiesta, per esempio, quanti anni ha proprio effettivamente, dove vive, come vive? Ma guarda, me lo chiedo in tutte le storie, cioè in tutte le strisce che scrivo, perché in qualsiasi striscia che scrivo ha una certa situazione che deve vivere. Ok. Ma però è un discorso in progress, nel senso locali dentro e... in progress è molto diciamo fatto al momento. Okay. non ha dietro, almeno non nella mia testa, non ha dietro una storia da raccontare, che poi se un giorno mi venisse in mente una storia delle origini di Gigo perché ho voglia di fare una cosa di questo tipo lo faccio. Certo. Però non ha riferimenti biografici, chiamiamoli così. È più un discorso di, come dicevi, calato nel contesto e come reagisce. Ma guarda, quando c'è bisogno della mamma, ha la mamma. Okay. Quando ha bisogno della fidanzata, ha la fidanzata. Quando ha bisogno di qualcosa, ce l'ha. Quindi, fantastico, li accende e li spegne a necessità. Anche se adesso, per motivi nostri di vita, conosco molto bene Laura, posso dire, parafrasando un grande, lei potrebbe tranquillamente dire Gigo, c'est moi. Perché io, conoscendola e leggendo poi delle sue strisce, ci vedo molto del suo vissuto. Vabbè, no? Certo, chiaramente ogni autore ci mette del suo. Beh, sì, diciamo che funziona, perché dopo tutti questi anni ho ancora idee, per cui evidentemente esatto. Funziona, anche per quanto lui sia un maschietto e una femminuccia, funziona. Vabbè, ma quello penso che sia totalmente slegato. La psiche, l'autore mette di sé la componente, un pezzo di psiche, un pezzo di cuore, ma non necessariamente, anzi, più è lontano da sé. Da un punto di vista grafico, da un punto di vista contenutistico, più si riesce a metterci del... Cioè, sicuramente. E ti faccio presentare il prossimo pezzo, visto che abbiamo fatto la playlist insieme. Parlavamo di... Facciamo un piccolo giro del mondo, comunque del mondo anglosassone. Beh, quindi... metto una canzone, cioè metto, sto per dire, una canzone che io ascolto spessissimo quando scrivo Gigo perché mi fa ridere. Okay. Ed è un pezzo dei Kinks. Easy come, then we went. There we went. Qualcosa del genere. E rieccoci sempre su Sono solo nuvolette sulle frequenze digitali di Radio Archimede, dalla Biblioteca Civica Archimede di Settimo Torinese, che è un bellissimo polo di cultura, come Giorgio e Laura hanno potuto notare arrivando. Molto grande e molto organizzato. Infatti anche questo bello studio radiofonico da cui trasmettiamo, che chi ci guarda online su www.radioarchimede.it può anche vederci. E poi però... Non so se sia una bella cosa. No, io non sono inquadrata. No, ci sei. Sì, ma mettiamolo così, tanti ci sentiranno in podcast e a quel punto lì saremo solo delle voci. Quindi solo chi riesce a sintonizzarsi nella prossima mezz'ora può ancora vederci, dopodiché rimarremo delle voci incorporee. Perfetto, mi piace. Ok. Ho fatto un piccolo errore nell'aver accennato a Gigolo sfigo senza contestualizzarlo un po' nelle uscite, dove chiedo Laura oggi dove possiamo leggere Gigolo sfigo, e poi se vuoi raccontarci anche, è stato molto premiato, quindi se vogliamo anche accennare brevemente alla sua storia. Ma guarda, Gigo è nato come fumetto, dicevo prima, nel 96, e ha visto, diciamo, la luce su una rivista contenitore che c'era allora, che si chiamava L'isola che non c'è. E dopo la chiusura di questa rivista, io ho continuato, tra virgolette, a pubblicarlo come autoproduzione. Okay. Per un po' di anni. Poi ho cominciato a pubblicare invece Gigo con la Punto Zero di Bologna di Andrea Plazzi. Poi vabbè, tante cose, vabbè, poi nel frattempo ho anche vinto un po' di premi, a memoria. Ho vinto, perché poi non ho vinto io, l'ha vinto Gigo. Ok. Distinguiamo. Vabbè, però prenditi qualche merito in quanto autrice. No. L'ha vinto lui. I premi li vincono i personaggi, ok, questo è interessante. Beh, insomma, è più facile così. Ok. Dunque, ne ho vinto un premio Fumo di Chinè nel 96, un premio IF, Immagine e Fumetto, credo fosse, nel 98, poi un altro premio Fumo di Chinè nel 2001, credo, più o meno. E poi l'ultimo l'ho vinto nel 2013, come sempre miglior fumetto umoristico, a una manifestazione che si è tenuta qui a Milano, Gran Premio Autori Editori, esatto. E per cui, insomma, questo non mi ha mai portato a diventare ricca o portato soldi, mi ha portato tanta soddisfazione, okay, però. Okay. Questo sì. Per quello che riguarda proprio le ultime cose che sto facendo con Gigo, come dicevo, io adesso pubblico Gigo, cioè ho trasformato Gigo in una striscia all'americana, per cui la battuta si nasce e muore all'interno di un massimo di 4 vignette. Tanto per spiegare a chi non fosse del settore, la striscia, la strip, è la forma sintetica più semplice e allo stesso tempo più difficile da realizzare del fumetto. Beh. Due o tre vignette, tre o quattro vignette? Tre o quattro vignette, qualche volta due. A volte anche solo Dipende due. Dipende da come costruisco. Ecco. Esatto, e c'è tutto un lavoro di costruzione della gag. Più che un lavoro di costruzione della gag, deve esserci un gigantesco lavoro di sintesi del disegno, perché deve subito capirsi subito tutto quello che vuoi dire. Sì. E l'ambiente, tutto quanto. E una estrema sintesi nei dialoghi. Che devono essere veramente, ogni parola deve essere pesata, mirata per quello che deve dire ed esclusivamente per quello. Anche perché questa è una regola che secondo me non vale solo nella striscia, vale per qualsiasi fumetto tu scriva, perché soprattutto umoristico, perché non faccio nomi di cose che possono essere in giro in questo periodo, succede che ti addormenti prima di aver letto la battuta, cioè devi leggere talmente tanto per arrivare alla battuta finale che ci sta che un colpo di sonno ti venga. Magari devi sapere anche un po' di romanesco. Vabbè, anche no, vabbè, comunque quello che cercavo di dire, insomma, questa estrema sintesi. Comunque adesso queste strisce di Gigo le vengono pubblicate sul settimanale Scorpio, a settimane alterne, che è in edicola dell'editoriale Aurea, e vengono proprio pubblicate in modalità striscia americana, come piace a me. Quello che mi è sempre piaciuto più di tutti, ho sempre ammirato gli autori di strisce americane. Ma se dovessi nel Pantheon tra Schulz, l'autore di Calvin e Hobbes, o ancora altri più recenti tipo Stefan Pastis, oppure l'autore di Dilbert, c'è qualcuno che metti più sul podio di altri? Jolly Hart. BBC. Io ho due grandi tra virgolette amori. Cioè, diciamo, che non mi cioè, se avessi una biblioteca piena dei loro fumetti, io leggerei 24 ore. Ok. E questi sono quelli che porteresti su un'isola deserta. Ma sì, ma proprio. Okay. Allora, uno appunto è Hart, BBC, e anche del mago Witz, si chiama, sì. Mi ricordo mai il nome. E poi Calvin e Hobbes. Ok. Perché sono belli, sono proprio come piacciono. De gustibus. No, ma qui c'è uno strano filo che lega i fumetti di Johnny Hart con Urania, visto che in realtà in Italia uscivano in coda alla rivista di fantascienza d'edicola. Ma infatti. Quindi Potrei scommettere che forse anche siete lettori di Urania o quantomeno siete legati. Io ho cominciato, okay, ho cominciato a leggere i libri di fantascienza di Urania che avevo 10 anni. Ma, ma questo comunque è un patrimonio familiare. Certamente. Perché suo padre è un appassionato di fantascienza. Ok. E comunque per contestualizzare anche BC è quello degli uomini preistorici, è sì, un, certo, una sintesi estrema, poche linee, e qui chi si lamenta di personaggi recenti, è chiaro, parlano a un pubblico più giovane, ma come sì, io per la semplificazione del tratto, certo, Johnny Hart c'era tutta un'altra sintesi, tutta un'altra ricchezza, sì lo so, mi guardi male Giorgio, lo so, però per questioni generazionali io devo un pochino giustificare anche... Diciamo che la sintesi, allora, no, la sintesi non è l'impoverimento stilistico, la sintesi del segno... Adesso parte il flame in trasmissione. È una meraviglia per gli occhi, cioè voglio dire, cioè, non è una banalizzazione. Esatto. Per arrivare alla sintesi, cioè, devi partire dal classico, e mano a mano che vai avanti a disegnare e studi il disegno, lo rendi sintetico ed efficace. Quindi direste che la sintesi è sottrazione, non si parte dal... cioè... Bravo. No, non si parte sicuramente, ma più che sottrazione è... Selezione mano dei solo tratti essenziali. Esatto. Allora, ma quindi Giacomo Bevilacqua me lo passi o bocciamo anche Giacomo Bevilacqua? No. Ah, okay. No, ma non è che stiamo bocciando degli autori. No, perché poi ognuno, devo dire, qui rientra il famoso argomento che ognuno ha i suoi gusti. Qualcuno ha dei brutti gusti, ma sono problemi suoi. Però è anche una cosa generazionale. Okay. Per esempio, a me piaceva da impazzire, sia come segno che come modo di narrare e di le tematiche, Andrea Pazienza. Vabbè, caspita. Perché in qualche maniera faceva anche parte della mia generazione quando ero più giovane. Adesso non riesco a leggere Zero Calcare e farmelo piacere. Ma non perché non sia un buon prodotto, non lo è per me, perché non mi piace. C'è un qualcosa di risonanza, di radici, di linguaggio che probabilmente... Sì, ma poi c'è anche un modo, come diceva prima Laura, di raccontare che non fa parte del modo che penso io debba essere fatto un fumetto, o comunque un dialogo, un meccanismo di storia. Però io sono anche vecchio, cioè voglio dire, se tu mi chiedi quali sono gli autori che hanno segnato la mia infanzia, faccio dei nomi che nessuno si ricorda più, cioè, per cui capisco questa cosa qui. Però sul segno volevo dire, a volte noi facciamo anche adesso tuttora dei corsi di fumetti, no? Allora a volte c'è un po' nei ragazzi più giovani l'illusione che, dato che quell'autore ha fatto boom con quel disegno lì sulla rete o pubblicando libri, devo partire da quello. Allora io dico sempre ai ragazzi, se dovete imparare a disegnare, non partite per esempio dall'ultimo Ugo Pratt di Corto Maltese, partite da, non voglio dire Alex Raymond, ma da qualcuno che sapeva disegnare, o comunque lo stesso Ugo Pratt degli inizi, perché se tu parti da lì e ne fai punto di partenza, la tua evoluzione ti porta a diventare Pete Mondrian, cioè l'astrazione totale, sì, capito? Cioè non so se rendo l'idea. Allora, come diceva prima Laura, la sintesi però, come hai aggiunto tu, per sottrarre. Invece la sintesi già sottratta, cioè già... il massimo è finito lì, cioè no, a me non piace. Sì. Ma sono, cioè, discorsi molto complessi, perché poi se vai a vedere, io non riuscivo a capire Drizzt, cioè Di Bigio, questi autori che sono in boom adesso della rete, Drizzt, Di Bigio e Sio, che hanno fatto boom, che hanno moltissimo seguito tra i giovanissimi, non li riuscivo a capire finché non ci ho visto dentro Ortolani. E Ortolani lo capisco se ci vedo dentro Bonvi e Silver. Cioè, alla fine, secondo me, c'è una sorta di genealogia del fumetto e le radici. Che se finché questo, vabbè, purtroppo sto mettendo dentro delle. Voi siete gli ospiti, sto mettendo dentro dell'autobiografico io, quindi non va bene. Però credo che un momento in cui riusciamo a contestualizzarlo, le cose diventano più chiare. Io penso che. Ecco, potrei fare l'esempio di Davide La Rosa, che ha cominciato con i fumetti fatti male. Sta antipatico? Ah, no. No, non ho detto niente. Ah, ok. No, però Davide La Rosa diventerà un bravo autore nel momento in cui accetterà di essere sceneggiatore. Sta già accettando di essere solo sceneggiatore. E gli ometti, stecco, eccetera, sono un passaggio, però non... non è autore nel momento in cui fa quello. C'è chi lo compra, però non è... Vabbè, mi sto infognando e adesso mi farò odiare dagli ospiti entro la fine del... No, no, ci facciamo odiare noi perché diciamo quello che pensiamo. Hai fatto dei nomi veramente altisonanti. Bah, vabbè... Io cerco solo di dare un po' di contestualizzazione, di capire ciò che funziona. Non vabbè, mi piace. Io, se mi chiede degli autori feticcio, i miti per me, io ti dico per esempio Walt Kelly. Uno vede cosa ha fatto Walt Kelly con Pogo, ma anche con altre cose, passa dei pomeriggi a guardare il suo disegno e a non capacitarsi della bravura di questo. E lì c'è sintesi, però non c'è banalizzazione. Beh, lì c'era tutta una capacità autoriale di un certo tipo, un contesto che ti permetteva di svilupparti, i quotidiani, che magari permetteva anche a Walt Kelly, adesso questo non lo so, ma forse di fare quello a tempo pieno e quindi sviluppare anche quel segno. A volte anche il mercato un po'... Beh, chiaramente la striscia americana è nata per essere stampata sul quotidiano. La carta del giornale quotidiano era talmente di qualità scadente che se tu non avevi un segno più che pulito, molto sintetico, finiva che la stampa ti uccideva il disegno, te lo impastava. E se vogliamo, adesso voglio fare il colto, la famosa linea chiara franco-belga e Tintin disegnato da Hergé è nata e si è sviluppata come linea chiara per motivi esclusivamente, almeno all'inizio, di stampa, di capacità effettiva della resa della stampa. Poi è diventato un vezzo, è diventato uno stile, è diventata una scuola, ma è nata per precisi problemi tecnici di riproducibilità. Te lo dice uno che ha fatto l'Istituto Bodoni Arti Grafiche a Torino, no? Per dire, no? Credo che sì, ma uno degli elementi nobili del fumetto all'interno della sua storia è che è stato influenzato anche dal mercato e diamanti sono nati in situazioni magari anche non favorevoli. Lo stesso Will Eisner ha sviluppato i suoi personaggi e ha inventato il romanzo grafico dopo anni di riflessione, dopo aver fatto prima un supereroe sui generi, Schiera Spirit, e aver fatto manualistica per l'esercito, aver fatto di tutto e di più. Certo, e però, parliamo di uno dei padri fondatori. Ma devi anche tenere presente una cosa, il nostro lavoro non è un lavoro artistico, è un lavoro di artigianato. Ok. Perché noi dobbiamo comunque fare i conti con la stampa, quindi con precise regole tecniche che devi sapere, se no mandi in stampa delle cose che non hanno senso. E comunque noi non lavoriamo su ispirazione, perché se io lavorassi su ispirazione evidentemente lavorerei due giorni all'anno. Lavoriamo su un mestiere, con un mestiere che abbiamo imparato in tanti anni. Sì. E qui però è un mestiere, non è arte. Lavoriamo per bisogni alimentari anche. Vabbè, la leggenda urbana non è che Daniel Defoe abbia scritto Robinson Crusoe per pagare i creditori. Quindi, certo. Infatti. Quindi, era un po' preoccupato che il discorso stava diventando troppo tecnico e troppo per iniziati. E mi chiedevo chi ci ascolta e che cosa capisce di tutto questo, e che ero preoccupato che fosse ristretto solo agli appassionati di fumetti, ma adesso abbiamo preso anche la categoria dei litografici, fotografi, stampatori, il futuro si allarga al pubblico. Sì, tante piccole nicchie, il futuro nelle nicchie, tanto il mainstream non ci piace, ci sono troppi soldi che girano nel mainstream, quindi non ci può piacere. Oh, per carità. E lascio Laura al piacere di annunciare la prossima canzone. Prossima canzone di Bryan Adams ed è Run to You. Ed era Bryan Adams, abbiamo fatto una tappa, siamo partiti dagli Stati Uniti, poi in Gran Bretagna, adesso in Canada, giusto per scelte musicali che abbiamo concertato io e Laura Stroppi ospite oggi. Giorgio Sommacal si è tenuto fuori dalla discussione musicale. Ha suggerito l'ultima, è vero, quindi la prossima, quella finale l'annuncerai tu. Promesso. Dai, in italiano ce la puoi promesso, fare. Infatti m'avete, perché io ho una pronuncia oxfordiana, solo che nessuno ci crede. Ma ho paura che il problema è che anche i nostri politici in genere hanno una pronuncia oxfordiana. C'era stato. Non è un bel precedente. Ci sono questi video buffi che capitano queste cose, ma no, vabbè. Abbiamo parlato male di autori di fumetti, adesso parliamo anche male di politica, così ci facciamo nemici tutti e così la risolviamo. E parliamo invece di editoria per ragazzi e illustrazione, che so che entrambi siete al lavoro anche nel settore. E Ambarabaci Cicocò, però io ho perso il filo, quindi vabbè, comincio io. Ok. Tiè. No, bene, bene. Allora, vabbè, sì, sicuramente ci siamo evoluti entrambi un po' per esigenze appunto di bollette da pagare o comunque anche per esigenze che per quello che riguarda me è il campo dell'illustrazione. Illustrazione per bambini è un modo di imparare cose nuove sul disegno, sul colore, che io non utilizzavo perché ho sempre fatto fumetti in bianco e nero. E per cui, insomma, sì, lavoriamo come illustratori per case editrici, grosso modo, che cioè non abbiamo, quello che intendo dire, non abbiamo degli agenti. Andiamo per contatti di case editrici e questo è stato un grosso passo per me, perché vabbè, io sempre ho disegnato bianco e nero e passare al colore, per quanto fatto a computer, ok, per me non è stato facile, anche perché io sono daltonica. Però vabbè, questo è un vissuto piccolo, vissuto personale, che vabbè, in realtà quando coloro mi devo attenere ai codici, non a quello che vedo, ok? Vabbè, tanto comunque se no un computer farebbe casino lo stesso, quindi nel passaggio tra le palette di colore a volte capita quello, quindi... Ok, mi consolo. C'è un problema di tante volte c'è un problema tecnologico, ma era un tal colore, no, è venuto fuori un altro, quindi... Sì, è vero, vabbè, però sai... Se parte svantaggiato diventa ancora più pesante. Mi ricordo la prima cosa che ho colorato, l'editore me l'ha rimandata indietro al volo perché secondo lui avevo fatto, secondo lui non l'avrei mai detto, avevo fatto la pelle di tutte le persone gialla quando per me era di un rosa bellissimo. Hai inventato i Simpson in anticipo del tempo? Ma no, purtroppo neanche quello, mannaggia. Però insomma, sì, si lavora come illustratore. Io, vabbè, avendo tra virgolette la fortuna di scrivere anche, riesco a riciclarmi, diciamo, anche tipo in altre situazioni come campagne pubblicitarie o cose di questo tipo, insomma. Per cui diciamo che il lavoro... col tempo è diventato molto più vario e molto io stessa sono diventata molto più come si può dire multitasking diciamo okay. Della stessa cosa che comunque è successa a lui. Certo. E libri nuovi in uscita a breve, progetti di cui puoi già segnalare? Ma guarda, libri nuovi in uscita breve, a brevissimo dovrebbe uscire un libro illustrato per me, da me per la Mondadori, Mondadori Junior, okay. Ed è un libro di barzellette, una raccolta di battute, barzellette con illustrazioni mie fondamentalmente. Diciamo, come si dice, in lavorazione. Un altro libro che dovrebbe essere con un'associazione, ma vabbè, parla diciamo di problemi dei bambini, eccetera, che dovrebbe uscire in occasione di un evento di Expo, ok? Per cui dovrò lavorarci anche piuttosto in fretta. Ok. E questo è quanto, quello di cui posso parlare, diciamo, okay. Anche perché sono molto scaramantica. Ok, ok, ok. Parlo di cose che so, per certo, se perfetto, no... Perfetto, e invece Giorgio, io conosco di tuo un libro stupendo che è Bestiacce, che è un'invenzione continua con Pino Pace, giusto, sì, lo scrittore? Sì, che è un'invenzione di questi animali strani. Beh, è un oggetto particolare. Allora, intanto l'abbiamo fatto insieme io e Pino Pace, che è uno scrittore di Torino, col quale avevo già collaborato semplicemente illustrando i suoi racconti, come solitamente succede. L'editore mette in contatto uno scrittore con un illustratore, però il progetto non è fatto insieme, perché lo scrittore inventa la storia, eventualmente l'illustratore coglie alcuni momenti e li illustra. Invece certo. No, questo, essendo nata poi un'amicizia con Pino, abbiamo inventato questo libro dove siamo entrambi autori, nel senso che lui si occupa poi della scrittura, io dell'illustrazione, però la vicenda, lo stesso impianto del libro, come è stato impaginato, perché l'ho fatto poi io l'impaginazione, è nata insieme, si chiama Bestiacce, le straordinarie, le incredibili avventure di Sam Colam e del professor Pico Pane, che altri non sono che i nostri alter ego, l'anagramma nel caso mio del mio cognome è ovviamente Pino Pace e Pico Pane, e altri non sono appunto che noi stessi, e sono questo professore completamente egocentrico, un po' folle, un po' sconclusionato, con il suo assistente al seguito che ha la passione del disegno e del fumetto, che intraprendono questo viaggio, quasi un viaggio darwiniano, alla ricerca di animali mai visti né conosciuti, appunto delle bestiacce, e che alla fine pare abbiano visto solo loro, perché nel corso del viaggio perdono tutti gli strumenti, l'attrezzatura, la macchina fotografica, e rimane semplicemente il quaderno di appunti dell'assistente Sam Collam, dove oltre che narrata la storia di come hanno incontrato e visto nei vari continenti il tal animale, la tale bestiaccia, dalla parte opposta nella pagina destra del libro c'è, come nei vecchi libri dove prima della fotografia si rappresentavano queste bestie mitiche, okay, il calamaro gigante, ci sono i nostri animali, le nostre bestiacce. All'arrivo, dopo un anno di viaggio, consegnano solo questo per dimostrare che hanno visto questi animali, e nessuno ovviamente ci crede. Allora gli animali sono per esempio il rinocerocchio, la cammellula, il pinguistrice, il pellicane. Ovviamente non abbiamo inventato nulla. Questo gioco di parole, di mettere insieme, miscelare due animali diversi, e non solo nella parola ma anche poi nel disegno, è una cosa fatta da tantissimi. Mi viene in mente, per esempio, fra i vari, c'era un autore di sketch animati pubblicitari che si chiamava Paul Campanì. Poi c'era stato lo stesso Iacovitti che ha fatto questo lavoro, e quindi noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo preso questa idea, semplicemente abbiamo fatto un corollario, una storia, abbiamo inventato questi personaggi. È seguito a bestiacce Universoo, che invece è il viaggio spaziale di questi personaggi, dove appunto scopriranno pianeti mai visti da nessuno e strane forme di vita aliena. Stiamo pensando al terzo libro, che dovremo produrre velocemente, tutti stampati dalla casa editrice EDT di Torino, che ha questa sezione libri per ragazzi che si chiama Gira l'angolo. Dico questo perché posso anche anticipare questa notizia, visto che ne hanno dato notizia pure loro. Lo studio di animazione che fu di Bruno Bozzetto, adesso è di Pietro Pinetti e di Andrea, il figlio di Bruno, ha messo come fra i progetti prossimi dello studio una resa in animazione di questi libri, di queste avventure. Questa cosa speriamo vada in porto, e si sta lavorando. Allora vi prenoto già magari anche con per quando uscirà, per tornare a parlarne. Sì, si parla, se tutto va bene, la tempistica della produzione televisiva di una serie un dura lunga. Qualche anno. Ah, beh, sì. Vabbè, allora speriamo di vederci anche prima, in corso d'opera, ogni volta. Vediamo una volta all'anno e ci aggiorniamo. Magari prima usciranno ancora il terzo e forse anche il quarto della serie bestiace, libri cartacei. Okay. Anche se io ho altri progetti pure su quello, ma non posso, come Laura, sono scaramantico, non lo dirò, però vorrei rendere questi personaggi in altre declinazioni. Okay. Declinati. Declinati. Visto che siamo su frequenze digitali, probabilmente chi ci ascolta è collegato a internet in questo momento, però possiamo dare coordinate per entrambi, come dove trovarvi, su Facebook o su blog, su... Allora, io ho una una mia pagina Facebook di Gigolo Sfigo, e proprio si chiama Gigolo Sfigo. Ok. Chi vuole andare a vedere questa pagina, basta che digita appunto Gigolo Sfigo, okay, sul motore di ricerca. Io in questa pagina metto, a tempo perso o comunque ogni tanto, qualche volta ogni spesso, delle strisce così, giusto per il divertimento di condividerle, per cui siete tutti benvenuti, chi vuole venire a farsi quattro risate, spero, è il benvenuto. Ok. Giorgio, qualche coordinata digitale che poi sì, purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo... allora, su Facebook ci sono io, nome e cognome. Okay. Poi ci sono alcuni blog, per esempio quando facevo, visto che stiamo chiudendo, lo accendo rapidamente, Vignette di satira con l'amico Augusto Rasori, con le lumache, Strisce bavose, digitandolo su Google vi rimanda un blog. E poi l'ultima cosa che stiamo facendo io, Augusto e anche Laura, che è questa striscia umoristica che si chiama Rapa e Nui, ha anche okay, un blog. Quindi okay, basta digitare questi nomi e... Ok, quindi c'è un po' di... un po' di dritte di lettura per i prossimi giorni, o anche per subito, se qualcuno ha il computer può cominciare a dare un'occhiata. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui. Abbiamo anche rischiato il flame, ma non mi avete menato, quindi non ancora quindi succederà tutto fuori onda. Grazie a te. Grazie Laura, grazie Giorgio. E Giorgio, a te il compito di annunciare l'ultima canzone. Sì, che sta già arrivando, ovviamente. E io do appuntamento la prossima settimana, sempre alle 15, sempre su Radio Archimede. Allora, Giorgio, in onore dell'Italia e delle appartenenze di Fulvio, direi Paolo Conte e Lisir. Okay.